Giovedì 7 marzo del 2013, siamo all'appuntamento con il Cinema Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi, la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info. Alla voce trasmissioni visionari troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 7 marzo, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra rassegne e festival. E in fondo alla pagina il link che rimanda alla puntata precedente e anche all'archivio del 2013 e del 2012. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per inviarci degli sms in diretta il numero è 342 357 4357, e poi c'è la nostra pagina Facebook che si chiama appunto Visionari. Diamo inizio ai collegamenti, un attimo di pazienza. In collegamento con Gabriele Salvatores, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. È la prima volta che ti ospito, ma immagino tu conoscessi già la radio, una delle prime. Certamente. Certo, certo. Tra l'altro stavo ripensando a un appuntamento, erano gli inizi dei 90, una proiezione di un tuo lavoro, la tua presenza al centro sociale Ricomincio dal Faro, al Trullo, sì, qui a Roma. Come no, sì. Come no, certo, me lo ricordo bene. Senti Gabriele, allora, dopo il benvenuto, volevo chiederti subito, il tuo film Educazione Siberiana intanto è uscito lo scorso giovedì 28 febbraio, com'è andata questa settimana? Ma molto bene, siamo anche abbastanza, tra virgolette, sorpresi, perché evidentemente non è una commedia come quelle che vanno normalmente, è un film un pochino più articolato e non ci aspettavamo che il pubblico immediatamente, cioè ci aspettavamo che poi scoprisse che era interessante, ma invece già proprio dai primi giorni, tanto è vero che oggi siamo il primo incasso, non è che questa sia l'unico metro di giudizio ovviamente, però insomma fa piacere che il pubblico vada a vedere quello che è fatto, come preparare una cena poi non viene nessuno a mangiarla, non è meglio, quindi siamo molto contenti. Allora io partirei anche un po' più da lontano rispetto al tuo film, volevo sapere cosa ne pensi rispetto al rapporto tra letteratura e cinema. Cinema, sì. Ma guarda, i produttori americani negli anni 40-50 dicevano che dovevi, per fare un buon film dovevi trovare un brutto libro, perché se il romanzo era bello aveva già svolto la sua funzione nell'ambito letterario. Allora, a parte che non è detto, non è vero in assoluto, però sicuramente negli ultimi anni i giovani scrittori, soprattutto quelli sotto i 40 anni, diciamo, hanno sicuramente nel dopoguerra, anche potremmo allargarci, hanno sicuramente aggiunto al loro immaginario l'immaginario collettivo cinematografico, quindi anche senza volere, senza pensare che poi dal loro romanzo potrà essere tratto un film, ecco, scrivono già con i ritmi e gli stilemi del cinema. È un po' come i fumetti che si rifanno al cinema e viceversa. E quindi è più facile trovare dei romanzi che possano essere adattati al cinema. Ecco, nel tuo specifico, com'è stato il contatto con il libro? Guarda, paradossalmente gli altri libri, non so, i film tratti da Nicolò Mannitti o da Cacucci, sono film che in qualche modo, sono libri che in qualche modo avevo scoperto, trovato. Qui per la verità questo romanzo non lo avevo ancora letto, mi è stato proposto dai produttori, da Cazzleia, e devo dire che appena letto ho capito che il materiale era interessante, importante, un sacco di personaggi interessanti, di aneddoti curiosi, soprattutto un modo di vivere e un mondo intero molto lontano dal nostro, che però proprio per questo mandava riflessi interessanti sul nostro mondo. Ecco, quello che mancava nel romanzo era una vera e propria storia, un qualcosa che si potesse raccontare dall'inizio alla fine, e qui ce la siamo inventata facendo rientrare in questa storia tutti gli aneddoti, i personaggi e le storie che mi piacevano dai Dillin. Ecco, proprio rispetto alla trasposizione, che la sceneggiatura è per mano tua insieme a Rulli e Petraglia, dicevi, sì, ecco, questa mancanza di un filo conduttore, ecco, le altre differenze sostanziali rispetto all'operazione proprio di trasposizione? Sì, guarda, il romanzo è molto, forse è più violento del film, anzi sicuramente, qui non è stata la voglia di togliere cose sgradevoli o appunto scene di violenza, a parte che ce n'è tante nel cinema, già ce n'è tantissime nel cinema americano, è inutile stare a fare la gara, ma a parte questo, la cosa che mi interessava, sì, era invece accostare il concetto di violenza, di lotta per la sopravvivenza, anche dura, anche violenta, anche al limite della criminalità, anzi criminale per certi versi, accostare questo con però invece una visione del mondo e certe cose che dicono questi criminali, tra virgolette, che sono non solo molto condivisibili, ma addirittura sarebbero molto interessanti da praticare. Ecco, non so, i nostri politici, frasi tipo quella che dice Nonno Cuja, interpretato da Malkovich, no? Il capo mafioso, dice: un uomo non può possedere più di quello che il suo cuore può amare. Beh, io non ho mai sentito da un nostro politico un concetto del genere, ed invece vivremmo meglio se potessimo applicarlo realmente, questa cosa, se fosse nella nostra cultura. Ecco, mi piaceva molto l'accostare l'aspetto criminale, borderline, anche violento, con però invece quasi la poesia, la tenerezza verso la vita e verso i propri simili che c'è in questa comunità criminale. Ecco, in questa comunità di onesti fuorilegge, definiamoli così, oltre alla caratteristica che già citavi della violenza, e c'è anche un forte rigore etico che si esplicita per esempio nel rapporto con il denaro. Certo, questo che mi interessava, no? Noi vediamo quelli, non voglio parlare di politica per forza, ma insomma vediamo quelli che ci governano, quelli che dovrebbero occuparsi del bene comune, che se la polizia arriva a casa trovano il denaro sotto il letto. Ecco, questi criminali onesti che magari il denaro lo rubano, ma solo a chi ce l'ha, ai banchieri, agli sfruttatori, eccetera, questi criminali onesti il denaro non lo fanno entrare in casa perché è sporco, secondo loro. Cioè, sono queste contraddizioni che sono contraddizioni, ma sono interessanti, ti fanno pensare, sono queste cose che mi hanno attratto. Gabriele, nella tua carriera 15 film, hai attraversato anche diversi generi, ecco, in quale ti senti più a tuo agio? Guarda, non lo so, lo sto ancora cercando forse la strada, come cantano gli U2, stiamo ancora cercandola. Ma il discorso non è solo questo, è che effettivamente ogni volta, secondo di quello che vivi, di quello che ti succede intorno, hai degli stimoli diversi e provi a raccontare le storie in maniera diversa. Guarda, io c'è un genere che ho sempre amato, che è il western. Fare il western in Italia ci hanno provato negli anni 60 con grandi risultati Sergio Leone ed altri, però insomma non è facile. Qui con Educazione Siberiana in qualche modo ho fatto un eastern, cioè più che un western, è ambientato nell'est invece che nel west, però i ritmi e le diciamo la spettacolarità, se vuoi, un certo tipo di cosa è simile a quella dei western. Quindi il prossimo film, pensa, parla di adolescenti e di supereroi. È un po' un mio vizio quello di cambiare un po' il genere, però così mi riesco a continuare a divertirmi, perché che palle fare sempre le cose che sai fare già, no? Non è interessante. Certo. Senti, proprio rispetto a Educazione Siberiana, dato che è uscito già da una settimana, che tipo di riscontri hai avuto dal pubblico, se hai avuto modo di confrontarti? Guarda, io te lo dicevo all'inizio, sono quasi sorpreso. Oddio, sapevo che il pubblico, allora il pubblico non è scemo, è che cosa che pensano in tanti. Io penso che magari siamo un po' obnubilati, un po' addormentati, perché hanno fatto di tutto in questi 20 anni per addormentarci, ma scemi no, il pubblico non è scemo, quindi ha bisogno a volte, io sentivo che c'era il bisogno di qualcosa di un po' diverso, anche di storie più storie, ecco, e non le solite commediole. Ecco, a questo punto però scopro che al pubblico piace molto, se vai un po' in giro sulla rete, vedi i commenti, le cose, le persone escono e lo raccomandano agli amici, ma soprattutto mi fa molto piacere che sto verificando che c'è molto pubblico anche nelle sale, nelle cineplex, cioè i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, giovani che forse il mio cinema non lo conoscono neanche, o forse lo conoscono per sentito dire, e questo mi fa molto piacere, sinceramente. Senti, e per concludere, anche per estendere il discorso che stavi facendo, lo stato del nostro cinema oggi? Sì, guarda, ecco, è un po' come ovviamente il cinema è riflesso della società e di quello che viviamo, è evidente. Noi, secondo me, i nostri cineasti sono bravi, abbiamo dei buoni registi, dei buoni attori, dei bravissimi tecnici, non c'è fiducia da parte di chi dovrebbe far lavorare le persone, non c'è fiducia nel nuovo e appunto verso i giovani. Questo è un problema che, come ben sapete e come sappiamo tutti, viviamo direttamente nella società, quindi si vive anche nel cinema, è la stessa situazione, è un vero peccato, perché continuo ad incontrare giovani o aspiranti registi, perché ancora non glielo fanno fare, magari con delle idee innovative, che però non hanno modo di esprimersi. Ecco, la prima cosa da fare sarebbe lasciare un po' più di spazio a queste persone e rischiare un po' di più, avere un po' più di coraggio da parte di chi produce il cinema. Bene. Gabriele, io ti ringrazio, magari ci risentiamo presto questi microfoni. Un abbraccio. Ciao. Piacere. Un abbraccio a te e a tutti quanti. Ciao. Ciao. Gabriele Salvatores, regista di Educazione Siberiana, uscito giovedì 28 febbraio scorso. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, proseguiamo. Roland Seiko, regista del documentario Ania, la nave, uscito nelle sale il 5 marzo scorso all'interno della rassegna L'Italia che non si vede, poi ha intrapreso il suo tour nazionale. Roland, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Bentrovati. Allora, raccontaci un po' di questo progetto, anche ti annuncio anche che tra poco sentiremo Daniele Vicari, che proprio in merito alla Nave Dolce, che sarà in programmazione alla Casa del Cinema la settimana prossima, e insomma i temi sono quelli analoghi. Raccontaci un po' della storia del tuo lavoro a chi ci ascolta. La mia racconta un po' i grandi esodi degli albanesi, sono tre grandi esodi che vengono ricostruiti, diciamo, attraverso le testimonianze dei protagonisti, quelle del marzo 91, quello del agosto 91 e anche l'esodo del 97, quando l'Albania crollò sotto le piramidi finanziarie, chiamiamole così. E un punto di vista dei protagonisti visti dall'Albania, piuttosto che soltanto dal lato della costa italiana, è una ricostruzione che cerca di capire o far capire le ragioni di questa fuga. Se normalmente il fenomeno degli esodi albanesi è stato considerato in Italia soltanto come fenomeno di migrazione, sì, con Ania si è cercato di far vedere un lato forse dimenticato, forse sconosciuto, anche ignorato, non saprei, che non è mai andato a scavare quali sono le ragioni perché queste persone scappavano da quel paese. Ecco. E allora, sentendo tutte queste testimonianze, che quadro ne hai ricostruito, Roland, di queste aspirazioni che spinsero tanti giovani, ma non solo, a lasciare in massa quel paese? È un quadro complesso che fa parte un po' della storia dell'Albania prima di tutto, ma anche dell'Italia, è un quadro di quella storia che ha cambiato tutti e due i paesi decisamente, ma prima di tutto ha cambiato le vite dei personaggi che sono stati coinvolti. Sono personaggi coinvolti in eventi storici molto più grandi di loro, come sono spesso gli eventi storici, dove i personaggi poi si sono aggrappati al loro momento di destino che gli è apparso, oppure hanno visto nella forma di una nave, ecco, andando via. Questi personaggi sono stati poi trovati oggi, sono stati rintracciati e visti nei loro posti dove lavorano oggi. Sono dei personaggi semplici, io ho scelto delle persone che fanno una vita normale nella loro quotidianità, sono parte ormai di un altro grande quadro che è quello dell'Italia multietnica. Allora, visto e considerato che hai voluto farne fare un lavoro da un punto di vista appunto dalle coste albanesi, volevo chiederti, rispetto ai primi esodi di massa del 91, la situazione oggi in Albania, e che differenze sostanziali ci sono? Che la differenza è in una parola: gli albanesi adesso possono muoversi tranquillamente in Europa, incluso l'Italia, praticamente senza visti. Cioè basta avere un passaporto, che può avere chiunque, e come qualsiasi persona possono venire in Italia, entrare e uscire come vogliono. Anche questo è un fatto che poche persone sono, ma dal dicembre del 2010 gli albanesi possono venire e uscire in Italia come gli pare, cioè sì. come dei turisti qualsiasi. Nessuno ha più sentito parlare di esodo in massa degli albanesi adesso che hanno la possibilità anche con un visto. Sì, ecco. Sì. E le condizioni di vita rispetto agli anni 90? L'Albania in 20 anni ha fatto dei passi da gigante, certamente con tutti i problemi che nascono in una società di transizione, è passato attraverso anche dei traumi come quello del 97 e il resto, però adesso è un paese, diciamo, democratico, con tutti i problemi di tutti i problemi dei paesi democratici. Certamente se parliamo dal punto di vista economico, l'Albania ormai fa parte parlando sempre di quadri, del quadro un po' europeo della situazione. Sì. È un paese in crescita, decisamente in crescita, che affronta la sua storia con più serenità, cioè ha passato almeno speriamo che abbia passato quei periodi di traumi, ecco. E passando invece alla prospettiva dall'altra costa, quella italiana, ecco, i rapporti tra cittadini albanesi e cittadini italiani? I rapporti tra quelli che vivono, tra gli italiani, gli albanesi che vivono in Italia, sono rapporti tra persone che convivono, non saprei cosa dire su questo. Che impressione hai avuto però rispetto ai racconti, rispetto agli inizi, a come è stato l'approccio? Le persone che io ho intervistato non sono state nemmeno da me, io non ero interessato al, sì, rapporto diretto con la cittadinanza, chiamiamolo così. Era più importante la loro lotta per la vita, cioè, decisamente se lo portiamo in un piano un po' più generale, nei vari esodi, l'esodo di Brindisi gli albanesi hanno trovato una popolazione che li accoglieva, soltanto 4 mesi dopo hanno trovato l'ostilità massima, sono stati chiusi all'interno di uno stadio e mandati via. 5 anni dopo, ancora nel 97, c'è stato un blocco navale, addirittura il primo e l'unico nell'Occidente, con manovre di harassing, di mandare via le navi, che ha portato anche alla collisione con una nave albanese, la Katri Rad, contro la corvetta Sibilla, che ha portato anche la morte di 82 persone. Cioè, sono momenti storici tutti, che sono stati affrontati in maniera diversa e che secondo me hanno lasciato anche un segno. Roland, il tuo lavoro, dopo questa presentazione nella rassegna L'Italia che non si vede, e dove sarà possibile vederlo? C'è un sito internet, per esempio, che ha un calendario? C'è una pagina Facebook, sì, di ANIA, chiamata proprio ANIA la nave, c'è una pagina Facebook. Dopo la presentazione, nel 17 nel Roma del Lazio, io ho presentato il film proprio ieri alla Cineteca di Bologna, dove mi trovo anche adesso. Il film sarà presentato poi in varie cinema, anche all'interno di un'altra rassegna nelle sale Arci, l'Italia che non si vede, che sta facendo il giro un po' di tutte le sale arci d'Italia. Allo stesso tempo sarà nei cinema di Firenze ad aprile, sarà poi in qualche festival, sarà il Festival di Bari, il Festival di Lecce da marzo ad aprile, dunque sta andando avanti. Sono molto contento perché per un documentario è importante che trovi il suo pubblico. Bene Roland, allora speriamo di risentirci presto per delle novità, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie, crepi. Ciao. Roland Seiko, regista del documentario Ania la nave, uscito il 5 marzo nelle sale. Come annunciato, Daniele Vicari, regista del documentario La nave dolce, che sarà in programmazione all'interno della rassegna Italia Doc di Maurizio Di Rienzo la settimana prossima, il 13, il 14 e il 16, il 17, con la presenza anche tua, vero Daniele? Intanto ben ritrovato. Sì, grazie, sì, anche con la mia presenza. Allora, tra l'altro poco fa abbiamo sentito Roland Seiko, tu sei stato anche alla presentazione del suo di documentario Ania la nave. Sì, qualche giorno fa, sì. Allora, noi stavo ricontrollando, è la terza volta che ci sentiamo per il tuo lavoro, ci eravamo sentiti all'inizio dell'autunno proprio per la presentazione veneziana e poi per l'uscita in sala qui a Roma con la presentazione al Teatro Valle Occupato. Adesso c'è questa opportunità. Grazie. Questa opportunità per il pubblico romano di vederlo in quattro giornate. Nuovamente, per chi ci ascolta, facciamo una breve storia della tematica che affronti. Ma allora, sono passati ormai 21-22 anni dagli arrivi di massa degli albanesi sulle coste italiane, in particolare sulle coste pugliesi, ed è stato il primo grande esodo di massa che ha riguardato l'Italia dopo la caduta del muro di Berlino. E a 20 anni e più di distanza ci rendiamo tutti conto che l'Italia è completamente mutata. Sì. Anche se certe dinamiche nel dibattito politico e anche certe dinamiche sociali, diciamo, sembrano non tenere conto che la realtà è davvero mutata e profondamente mutata, per cui a distanza di tutti questi anni, evidentemente più di un regista e più di uno studioso sente l'esigenza di riflettere su quello che è accaduto e su che cosa è e che cosa significa questo grande mutamento di cui siamo stati testimoni, diciamo, diretti. Daniele, nel tuo film nell'immaginario l'arrivo è ancora nella memoria collettiva, con queste navi stracolme di migliaia e migliaia di persone, la Flora ne conteneva 20.000 aggrappate in tutti i modi. Quello che invece è stato rimosso è il dopo, la cosiddetta accoglienza, cioè gli scontri, l'intervento dell'esercito, il fatto che queste persone sono state rinchiuse per quasi una settimana all'interno di uno stadio sotto il sole e soprattutto la disorganizzazione e la ferocia poi di un trattamento che determinò anche una sorta di crisi istituzionale. Eravamo alla fine della Prima Repubblica, eravamo anche agli esordi di formazioni xenofobe, dichiaratamente xenofobe come la Lega Nord. Sì, no, non c'è dubbio che l'arrivo degli albanesi in Italia e l'arrivo della Vlora in particolare, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, furono proprio l'inizio di questo grandissimo mutamento di cui stiamo parlando. Pochi mesi dopo nasce appunto la Lega Nord con la parola d'ordine no all'albanese, via gli albanesi dall'Italia. Noto, diciamo, con interesse il fatto che dopo 20 anni in cui le campagne elettorali sono state sostanzialmente basate sulla questione dell'immigrazione, nasce appunto all'inizio degli anni 90 la politica securitaria, proprio sì, con quell'intervento lì che Cossiga impose a Bari, nacque l'idea che si dovessero respingere le persone in massa e che quella, l'arrivo degli stranieri in Italia fosse un'invasione, diciamo, illegittima. Sì. E quindi c'è tutta una parte del mondo politico, dei partiti politici, che hanno basato la loro, come posso dire, le loro campagne elettorali e purtroppo anche la gestione dell'immigrazione in gran parte sull'idea appunto del respingimento e della ghettizzazione. Questo ha fatto a cazzotti con la realtà diciamo sociale ed economica, perché poi le imprese, molti settori economici avevano bisogno di manodopera, ma non solo di manodopera, anche di innovazione, no? Di idee, sì, innovative, sì, sì, sì. Questo fatto che dal punto di vista delle istituzioni non è stato mai risolto il tema, il problema, non è stato mai affrontato fino in fondo in maniera lucida e razionale, ha fatto sì che in questi 20 anni tutte le campagne elettorali fossero basate sulla paura per lo straniero. Ecco, quella che abbiamo appena vissuto è la prima nella quale almeno apparentemente questo tema, diciamo, non è stato posto al centro del dibattito politico. E secondo la tua opinione, da cosa è motivato questo scarto di interesse rispetto, ecco, a un ventennio in cui è stato al centro, per esempio, del dibattito e anche delle campagne? Ma allora, ci sono dei motivi, diciamo, secondo me, abbastanza evidenti di carattere economico e sociale, che spingono le forze politiche anche a una certa prudenza su questi temi, no? Sì. In un momento di crisi economica, per esempio, la presenza in Italia di milioni di lavoratori che contribuiscono al prodotto interno lordo, evidentemente, certo, come posso dire, è una cosa preziosa da un punto di vista macroeconomico. Sì. Poi non c'è dubbio il fatto che il grandissimo, importantissimo lavoro fatto da associazioni, strutture di base, strutture sociali che hanno in questi 20 anni costruito una relazione vera, un rapporto vero con queste persone, ha fatto sì che piano piano, no, si diffondesse anche una coscienza maggiore rispetto alle problematiche della presenza degli stranieri in Italia. E poi c'è l'opportunismo. Io ho notato in questa campagna elettorale che ci sono stati alcuni partiti politici, per esempio il Movimento 5 Stelle, che è stato molto reticente su questi temi, perché è un tema che divide. Se qualcuno avesse posto come, qua bisogna dare atto ai partiti di centrosinistra, per esempio, di aver detto una cosa chiara, no? Dobbiamo dare la cittadinanza ai cittadini presenti sul territorio nazionale, no? Passando di fatto dallo ius sanguinis allo ius solis. Ma le altre formazioni politiche si sono tenute molto distanti da questo tema, perché è un tema che divide, è un tema che fa perdere i voti. Evidentemente, soprattutto se vai a pescare in settori sociali, quelle forze politiche vanno a pescare in settori sociali che sono quelli classici di appartenenza della cultura di destra. Mm-hmm. E questo è molto interessante, diciamo, dal mio punto di vista, perché appunto questo tipo di opportunismo, con questo tipo di opportunismo dovremmo fare i conti. Sì, anche perché, secondo me. Anche perché, Daniele, di fatto le politiche dei respingimenti, l'esempio è Lampedusa, in seguito poi a quello che è successo nel continente africano, soprattutto ai paesi mediterranei, è continuata para, insomma, con l'utilizzo che è stato fatto e continua a essere fatto dei centri di identificazione ed espulsione. Assolutamente, anche da questo punto di vista raccontare la vicenda dello stadio della Vittoria a Bari per me era particolarmente importante, perché è stato il primo CIE italiano, cioè è stato il primo luogo di concentramento delle persone in attesa dell'espulsione. Sì. E la necessità di concentrare queste persone in luoghi chiusi, che sono sostanzialmente delle carceri, ma che rispetto alle carceri hanno non hanno il controllo sociale che c'è in qualche modo sulle carceri, che sicuramente rende le carceri meno inconoscibili di quelle che sarebbero senza questo controllo sociale. Cioè, dentro le carceri ci sono associazioni che intervengono su gruppi o su singoli detenuti, ci sono le scuole, cioè, mentre nei centri di identificazione e espulsione non è possibile tutto questo, è molto marginale il lavoro che possono fare le associazioni, e quindi dentro questi luoghi si consumano, dentro queste carceri molto strane, molto particolari, apparentemente provvisorie, viene negata l'idea stessa della cittadinanza e quindi vengono negati i principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Daniele, il tuo lavoro è stato uno dei rari casi di documentari che arrivano nelle sale, che bilancio ne fai? Proprio ieri mi diceva il distributore che il film ha avuto un risultato abbastanza eccezionale, diciamo, rispetto a come normalmente i documentari vengono accolti nelle sale. Questo mi fa molto piacere, ha avuto decine di migliaia di spettatori, il distributore è soddisfatto perché è rientrato dei costi della distribuzione, quindi in qualche modo si è dimostrato che è possibile distribuire i film documentari nelle sale, al di là di certe cose meritevoli che si fanno, si continuano a fare, in cui i documentari vengono proposti in rassegne, singole proiezioni, no? Penso che ci sia un pubblico anche per il cinema documentario, quando il cinema documentario evidentemente fa proprio i principi della narrazione e accompagna lo spettatore, cioè e fa fare un'esperienza allo spettatore. Bene, ricordiamo allora l'appuntamento all'interno di Italia Doc, la Casa del Cinema, qui a Roma, la settimana prossima, la proiezione del tuo documentario La Nave Dolce, alla tua presenza, il 13, il 14, il 16 e il 17. Daniele, come sempre, sono un piacere queste conversazioni con te, ti abbraccio. Piacere per me, grazie. E ci sentiamo presto. A presto. Ciao, ciao, ciao. Buonasera a tutti. Vi ricordo i nostri contatti per inviarci SMS in diretta, 342-357-4357, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Bene, siamo in collegamento con Paolo Bravi, co-regista del documentario Voci nel deserto, appunto, un documentario. Sarà presentato sabato 9 marzo al Brancaleone, qui a Roma, che è un luogo che ospita ogni... Se non parte, fatelo partire voi. Pronto, ci sei? Sono. Eccoci Paolo, dicevo del Brancaleone, dove ci sarà sabato 9 marzo la presentazione del documentario, che è il luogo di residenza ogni ultimo venerdì del mese, e questo collettivo di oltre 70 attori e attrici rileggono testi dai classici, dagli antichi greci ad oggi, testi che hanno una straordinaria attualità, li ripropongono spesso in serate tematiche. Noi abbiamo per esempio trasmesso all'interno del radioteatro una serata a tema guerra. Intanto benvenuto a Visionari. Grazie, su Radio Onda Rossa, Paolo. Paolo, allora, ti chiedo di dirci anche com'è nato questo tuo rapporto con il collettivo Voci nel Deserto. Allora, il rapporto è nato tramite, in qualche modo, anche la mia collega Iris Manca, con la quale abbiamo girato il documentario, e ci siamo in qualche modo imbattuti in Voci nel Deserto in un momento, diciamo, che era immediatamente dopo il loro primo anniversario, quindi una situazione ancora di relativa gioventù di questo collettivo, e ci siamo appassionati all'idea. È stato deciso di realizzare questo documentario, che poi in realtà si è sviluppato lungo l'arco di almeno un paio d'anni, quindi con dei tempi relativamente lunghi, ma anche per raccogliere, diciamo, una certa quantità di materiale e riuscire un po' anche a cogliere alcuni aspetti sia delle dinamiche interne di questo collettivo, sia dei temi che in qualche modo, in parte, avete già anticipato e che abbiamo approfondito in parte nel documentario. Un lavoro che quello di Voci nel deserto è molto attento alla memoria. Tra l'altro l'esperimento, questo progetto nasceva in pieno berlusconismo, ora le condizioni sono piuttosto cambiate, anche se insomma siamo in un momento di transizione abbastanza confuso. Ecco, nell'arco di questi anni, soprattutto da quando avete cominciato a seguire questa storia, che tipo di trasformazioni anche ha vissuto il collettivo? Questo è un aspetto estremamente interessante, perché da un certo punto di vista la mia personale impressione è che la necessità in qualche modo di questa operazione, che è un'operazione appunto giustamente come dite di memoria e di riattualizzazione continua della memoria, in realtà sia un'esigenza che sicuramente era fondamentale nelle fasi del berlusconismo, diciamo più, chiamiamolo, acuto, ma che in realtà trova, non so se dire purtroppo, una ragione molto molto chiara anche oggi, anche nella situazione in cui siamo. Paradossalmente ascoltare proprio oggi alcuni dei frammenti che vengono portati in scena da Voci, parlo di l'altro giorno riascoltavo, non so, quelli addirittura di Tucidide, piuttosto che uno in particolare di Ilario di Poitiers, che è del V secolo dopo Cristo, ti mettono davanti a delle situazioni che a tutt'oggi, quando sentiamo un giornale radio e sentiamo parlare di Scilipoti piuttosto che di qualche altro parlamentare, hanno un'attualità sconvolgente. Sì, il collettivo in sé si è evoluto, secondo me, molto in termini di essere ancora più pronto a reagire a quello che succede giorno per giorno, e questo succede anche non solo quando il collettivo fa questo spettacolo, chiamiamolo così, un rave teatrale mensile, ma anche per esempio quando va in strada a fare delle azioni, piuttosto che quando va nelle scuole. È chiaro che a quel punto il collegamento con l'attualità, nella selezione perlomeno dei testi, anche se si tratta di testi molto molto antichi, viene in qualche modo riattualizzato ogni volta, quindi sono diventati tra virgolette ancora più bravi a rispondere velocemente ai cambiamenti che poi ti prego, ci sono e non ci sono. Ecco, tu parlavi di rave teatrale, perché non l'abbiamo specificato, ma oltre a questi 70 attori che a rotazione e attrici che a rotazione si esibiscono sul palco, il gruppo è di 10-20 ogni serata, e c'è anche un DJ, DJ Tuppi, giusto? Esatto. E poi ci sono immagini e ci sono estratti video. Paolo, come hai organizzato il documentario? Come è strutturato? Il documentario è strutturato sostanzialmente con un'alternanza di parti che in qualche modo provano a raccontare anche un po' quello che accade dietro le quinte di Voci nel deserto, ma anche in gran parte è diventato durante la lavorazione più che un backstage, nel senso classico del termine, un lavoro anche molto giocato sulle interviste agli attori e anche ai tecnici, ai collaboratori di Voci nel deserto, perché non ci sono solo gli attori. Certo. E quindi interviste su alcuni temi che possono essere ad esempio appunto il rapporto del collettivo con la politica ufficiale, quindi eventualmente con partiti, strutture, istituzioni che in qualche modo in alcuni momenti si sono avvicinati e hanno richiesto anche il loro intervento, quindi anche questo per esempio è un aspetto interessante, così come il che cosa significa oggi essere un collettivo, un collettivo teatrale, cioè un collettivo in qualche modo che fa arte, un tipo di arte che vuole incidere, che non vuole semplicemente testimoniare, ma vuole anche portare, diciamo, la gente a riflettere in maniera attiva, proattiva. Senti, quindi, allora, dimmi. No, quindi è un'alternanza un po' di tutte queste cose, dando molto spazio alle voci proprio in particolare degli attori, che raccontano in qualche modo anche il loro modo di procedere e di lavorare questa cosa. A questo punto diamo l'appuntamento a sabato per la presentazione del documentario Voci nel deserto, un documentario sabato 9 marzo al Brancaleone. A partire da che ora, Paolo? A partire dalle 21. Benissimo. E mi sa proprio che ci vediamo lì. Un abbraccio. Benvenuti. Grazie molte. Ciao. Arrivederci. Alessandro Baltera, avremmo dovuto sentire Matteo Tortone per la campagna di crowdfunding del White Man Project. Il contatto invece è Alessandro. Intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, anche tu per parlare di questo progetto, Matteo lo avevamo sentito un po' di tempo fa proprio per parlare di quel documentario che credo abbia dato il via a tutta questa operazione, che fa poi si unisce ad altri cortometraggi da voi realizzati. Intanto parliamo di questo White Man Project e poi come si sta articolando. Sì, esatto, ci si era sentiti l'anno scorso con Matteo per White Man, che è stato il primo lungometraggio che abbiamo, documentario che abbiamo girato in Tanzania e che riguardava la strage degli albini. Ora White Man è diventato White Man Project, nel senso che a questo si sono aggiunti tre cortometraggi che si intitolano Swahili Tales, che abbiamo presentato quest'anno al Festival dei Popoli e come film ospite al Festival di Roma, e stiamo aspettando di distribuire nei festival internazionali. E appunto ora l'intento è quello di continuare, come è stata indipendente la produzione, anche con la distribuzione, quindi attraverso un crowdfunding che mette insieme questi cortometraggi e il film in modo da diffondere il percorso completo che abbiamo compiuto noi in Tanzania. Ecco, a proposito della Tanzania, visto che magari non tutti hanno seguito quell'intervista su White Man, c'è una sorta di razzismo al contrario, nel senso che gli albini sono vittima di pregiudizi e credenze superstiziose. Esatto, e questo ha condotto però, intrecciandosi con quella che è la situazione della Tanzania contemporanea, ha poi una vera e propria persecuzione e una strage, sì, che è iniziata dal 2006 e che conta con più di 100 albini uccisi o mutilati, perché appunto con parti del loro corpo si crede sia possibile creare delle pozioni magiche. Quello che noi abbiamo voluto indagare con i tre cortometraggi successivi, che appunto sono Swahili Tales, è quello che viene raccontato dalla stampa occidentale riguardo di questa strage, che ad esempio attribuisce le colpe ai minatori e ai pescatori del nord della Tanzania, in quanto identificati come coloro che più aderiscono alle credenze della medicina tradizionale, della religione della stregoneria. E quindi abbiamo passato del tempo anche con i minatori e i pescatori, queste persone appunto che vengono considerate i responsabili degli omicidi, benché non esistano poi prove circostanziate. E parallelamente abbiamo seguito la Chiesa evangelica, che è la Chiesa con la maggiore diffusione negli ultimi tempi in Tanzania, che interpreta appunto questa lotta contro la stregoneria, una lotta fra il bene e il male. E questo è il terzo cortometraggio che compone Swahili Tales, insieme appunto alle storie dei minatori della Covittoria. Alessandro, volevo chiederti anche rispetto al di spiegarci un po' questa campagna di crowdfunding che credo sia partita da poco e andrà avanti ancora per un certo periodo. Sì, abbiamo iniziato lo scorso lunedì su Indiegogo, che è una grossa piattaforma di crowdfunding statunitense, e appunto stiamo chiedendo alla gente. Benché noi crediamo anche nella diffusione gratuita dei nostri film, infatti tra poco cercheremo di metterli online fruibili per tutti, stiamo cercando un contributo per poterli anche stampare su DVD e farli arrivare alle persone, e quindi appunto su indiegogo.com è possibile trovare il White Man Project, che è iniziato una settimana e andrà avanti ancora per 35 giorni. Benissimo, e poi immagino che abbiate anche dei siti internet di riferimento. Sì, il sito del film, o no, che è diventato dei film, è whiteman.it, e dopodiché sotto White Man o White Man Project siamo rintracciabili sotto tutte le altre forme di social network, da Facebook a Twitter. Benissimo. E allora ci sentiamo magari più in là per sapere poi i risultati di questa campagna. Sperando di avere buone notizie, sì. Certo. Alessandro, un abbraccio, un saluto anche a Matteo, a risentirci presto. Anche a te, grazie, buon lavoro, ciao. Alessandro Baltera per la campagna di crowdfunding del White Man Project. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Di nuovo l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info per inviarci sms in diretta 342 357 4357. Proseguiamo. Daniele Silipo di Distribuzione Indipendente, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico, salve a tutti. Allora, con te per parlare di un progetto di cui avevamo già accennato qualche mese fa, G-Movie. Di cosa si tratta, Daniele? G-Movie è sostanzialmente una free press, che ora detta così sembra una cosa un po' strana, però in realtà l'idea è stata quella di sostituire, normalmente le free press sono delle riviste, in questo caso invece si tratta di un intero film su supporto DVD, quindi un'edizione on video a tutti gli effetti che sta già in distribuzione soprattutto a Roma e Bologna, ma anche in altri punti vendita in altre città, che non ha alcun costo di copertina, può essere preso da chiunque perché si autosostenta tramite inserzioni pubblicitarie che sono messe prima del film in forma audiovisiva e anche dentro la confezione in forma di flyer e brochure. Tra l'altro questo progetto nasce da Distribuzione Indipendente, che è una realtà di cui ci siamo occupati fin dagli esordi, anzi anche prima, da quando era in progetto di divenire. Adesso è diventata una realtà che si sta consolidando e diffondendo sempre di più all'interno del paese. Intanto volevo chiederti com'è la situazione adesso per Distribuzione Indipendente come rete nazionale, e poi perché da voi è partito proprio questo progetto G-Movie? Allora, volevo innanzitutto precisare che comunque il progetto è frutto di una collaborazione tra Distribuzione Indipendente e Laboratorio Bizzarro Edizioni, sì, che è una casa editrice che si occupa in particolar modo di cinema. Quindi diciamo è stato uno sposalizio tra due piccole realtà che sono riuscite così a portare a termine un progetto ambizioso come quello di G-Movie. Distribuzione Indipendente, l'idea di far nascere questo progetto è dovuta al fatto, come reazione a questo clima di crisi perenne che si vive in Italia. Generalmente la cosa su cui si risparmia di più è la cultura, perché ovviamente le persone evitano magari di andare al cinema, di comprare un libro, perché ovviamente viene prima la sopravvivenza. In quest'ottica ci sembrava carino trovare un modo sostenibile per diffondere cultura gratuitamente. Ragionando su questa necessità siamo quindi arrivati alla conclusione che era necessario provare quantomeno a mettere in piedi un'operazione di questo tipo. Questi sono poi i motivi che hanno portato alla nascita di G-Movie. Oh, adesso che succederà? Che diffusione avrà? Allora, il progetto, come dicevo, il DVD sarà diffuso soprattutto a Roma e Bologna in modo molto capillare, sì. A Roma anche tramite la pizza a domicilio, quindi uno ordina la pizza a domicilio da Miss Pizza, insieme alla pizza arriva anche il DVD gratuito, e poi ovviamente una buona quantità sarà diffusa come una qualsiasi free press in locali pubblici, librerie, cinema, teatri, tutti i luoghi che diffondono G-Movie sono riportati sul sito sia di Distribuzione Indipendente che di Laboratorio Bizzarro. C'è già un Roma e Bologna. Sì, no, finisci. Oltre Roma e Bologna ovviamente ci sono anche dei punti vendita sparpagliati, in modo ovviamente meno sistematico, però ci stanno dei punti vendita anche, dei punti di distribuzione anche a Milano, a Palermo, a Bari, a Torino, nei prossimi giorni verrà attivato anche un punto di distribuzione lì, quindi insomma stiamo cercando comunque di garantire una copertura nazionale, pur puntando ovviamente su due città come Roma e Bologna. C'è già, immagino, un elenco di opere che verranno distribuite in questo modo? Dunque, ci sono un elenco che abbiamo noi, ma non divulghiamo, nel senso che ovviamente poi sono decisioni, stiamo vagliando diversi titoli. Si vedrà di volta in volta. Esatto, sì. Anche per capire un po' come reagisce intanto la gente a The Ghostmaker. Sì. Già questo può dirci molto poi sulla strada da intraprendere. Sicuramente continueremo sulla strada dei film inediti, cioè con un occhio ovviamente ai prodotti un po' più commerciali, che però insomma non facciano urlare vendetta ai cinefili, ecco, come The Ghostmaker, che può essere visto da chiunque, apprezzato da chiunque. Senti Daniele, in chiusura ti chiedevo prima di distribuzione indipendente, ecco, come sta andando avanti come realtà rispetto alla rete, alla rete che si era creata, si stava creando a livello nazionale? Beh, sta andando bene, nel senso stiamo continuando a distribuire i film in sala, l'ultimo è Viva Zappatore, che uscirà a breve. Sentiremo giovedì prossimo, immagino, il regista, stavo già progettando di sentirlo la settimana prossima. E su quante sale contate al momento? Sono una trentina di sale sparse su tutto il territorio nazionale. Bene. Sì. Senti, vabbè, anche le sale possono vederle dal sito di distribuzione indipendente. Esatto. Possono accedere poi lì allo spazio sale, dove regione per regione, città per città, sono segnalati le varie proiezioni del film. Benissimo. Daniele, allora i riferimenti li abbiamo dati, noi ci sentiamo anche abbastanza regolarmente, e a risentirci presto. Perfetto, alla prossima allora. Ciao. Daniele Silipo di Distribuzione Indipendente sull'avvio del progetto G-Movie. Bene, ce l'abbiamo fatta a sentire anche Chiara Boffelli, coordinatrice generale della 31esima edizione del Bergamo Film Meeting, che prende avvio sabato 9 fino al 17 marzo. Chiara, benvenuta, ben ritrovata a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, di solito non ci occupiamo di festival, ma di quelli che hanno una particolare rilevanza e anche sono a misura d'uomo, insomma rappresentano anche la provincia e hanno proposte interessanti, ci piace anche dedicare uno spazio a loro. Bergamo Film Meeting, tra l'altro, ha 31 anni. In breve, ci spieghi un po' come è strutturato quest'anno, qual è la proposta? Sì, quest'anno siamo alla 31esima edizione, abbiamo scelto di le linee guida del festival, le colonne portanti del festival, di confermarle. Il nostro festival ha la particolarità di essere un festival per un pubblico molto attento e molto amante del cinema. Il sottotitolo di Bergamo Film Meeting è infatti Mostra Internazionale del Cinema d'Essai, e la nostra proposta da sempre è rivolta sia sul cinema contemporaneo, in particolar modo nella sezione concorso, nella sezione Visti da Vicino, che è dedicata al documentario, e da 3 anni anche a una parentesi, a una rassegna che noi dedichiamo a delle tematiche di tipo europeo. Quest'anno la sezione si chiama Cantiere Europa, ma da sempre lo zoccolo duro del nostro pubblico molto cinefilo si aspetta ed è molto attento anche alla proposta delle retrospettive classiche. E quest'anno l'omaggio è ad Alec Guinness, una retrospettiva è tematica, si chiama Falso d'autore, quindi come gli autori anni 50, 60 e 70 hanno affrontato il tema del falso. E poi quest'anno una delle parti più importanti del festival è la retrospettiva dedicata a Robert Guédiguian, autore marsigliese ormai al suo 18esimo film, un autore molto conosciuto, molto importante in Francia, un pochino meno in Italia, e quindi il ruolo del festival è anche quello di dare luce ai grandi autori europei, ma non solo, e cercare di portarli a conoscenza anche al pubblico italiano. Sì, sì. Anche se De Guédiguian ha avuto un periodo di diffusione abbastanza sostenuto in Italia, qualche anno fa diversi suoi lavori erano arrivati nelle nostre sale, sì, ricordo. Sì, sì, Merigot, i suoi due amori, sì, all'Attac, sì, sì. Le nevi del Kilimangiaro, per citare qualche titolo, esatto. Diciamo dei suoi 17 film, 4 se non erro, sono stati distribuiti anche in Italia. Chiara, per concludere, quante opere più o meno saranno presentate e da quanti paesi? Abbiamo circa un centinaio di film, sia lunghi che corti. Noi abbiamo un concorso di lungometraggi, ma all'interno della rassegna abbiamo una quindicina di cortometraggi quest'anno nella sezione Cantiere Europa, per cui siamo intorno ai 90 lunghi più una quindicina di corti, e abbiamo rappresentati praticamente quasi tutti i paesi europei, più una buona fetta di cinema americano per quanto riguarda le retrospettive, che è lo zoccolo duro, ecco, della proposta classica che noi facciamo. Bene, allora, 31esima edizione del Bergamo Film Meeting dal 9 al 17 marzo. Chiara, ci lasci anche un riferimento internet per la programmazione? Sì, tutte le informazioni si trovano sul sito bergamofilmmeeting.it. Benissimo, un abbraccio, a risentirci alla prossima. A presto, grazie a voi. Ciao, a presto. Chiara. E con Chiara Boffelli del Bergamo Film Meeting concludiamo la puntata di questa settimana per quanto riguarda Visionari. I riferimenti sono la nostra pagina Facebook e alla voce proprio Visionari, sul sito internet della radio www.ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta 342 357 4357.